Radio Popolare presenta la... Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare di suasorie e controversie, di criminologi incalliti, nonché di piccole virtù virtuali.